La politica ora, perché queste sono giornate davvero piuttosto vivaci. Stamattina, anche se qualche giorno fa proprio Radio 24 aveva anticipato la notizia, si è saputo definitivamente quando andremo a votare e anche per cosa. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Il 13 e il 14 aprile si voterà sia per il Parlamento che per le amministrazioni locali, elezioni politiche e amministrative dunque accorpate in una unica tornata. Dopo l'accordo con il centrodestra, il Consiglio dei Ministri di oggi ha infatti varato un decreto che in sostanza dà il via libera a questa operazione, consentendo l'anticipo delle consultazioni comunali e provinciali che normalmente si svolgono tra il 15 aprile e il 15 giugno. Inoltre vengono apportate alcune modifiche al procedimento elettorale, anticipando al 2008 il voto in quei comuni cui sindaci come Veltroni hanno deciso di dimettersi per candidarsi in Parlamento. In quei comuni il voto si sarebbe svolto automaticamente nel 2009, quindi con un lungo commissariamento che viene invece evitato. Via libera anche alla presenza degli osservatori dell'OSCE presso gli uffici elettorali e fissate nuove regole per il voto all'estero con l'aumento del numero dei seggi elettorali. Infine vengono esonerati dalla raccolta di firme per le liste elettorali le formazioni nuove come ad esempio il Partito Democratico, la sinistra arcobaleno, il PDL. Da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie Alessandra Schepisi. E si parla ancora del tema alleanze. Nel centrodestra continua la soap tra Berlusconi e Casini, che oggi dovrebbe però arrivare alla sua ultima puntata. Infatti questa mattina si è riunito il gran consulto della direzione dell'UDC per sciogliere la riserva, dentro o fuori il Partito del Popolo delle Libertà. Allora Andrea Viali, raccontaci com'è andata. Sì, purtroppo non è l'ultima puntata, ma forse ancora l'ennesima penultima puntata, perché l'UDC ha deciso che è pronto ad andare da solo al voto, ma in ogni caso si presenterà agli elettori con il suo simbolo. Questa è la decisione che è arrivata poco fa dalla direzione nazionale del partito che è riunita a Roma, ma è una decisione che dunque lascia aperta la porta ad una eventuale alleanza elettorale con il Popolo delle Libertà, quindi con Forza Italia, cartello elettorale di Forza Italia e Alleanza Nazionale. I centristi però ci tengono a mantenere la propria autonomia. Nelle prossime ore sentirò Berlusconi, ha detto il leader dell'UDC Casini, impegnato quindi in un nuovo tentativo di mediazione, però in caso di un mancato accordo Casini ha detto anche che scioglierà la sua riserva e deciderà se presentarsi come candidato premier. A quel punto l'UDC andrà da solo alle elezioni. Siamo pronti a collaborare ma non a farci annettere, ha ribadito Casini, rispondendo così di fatto ripassando la palla di fatto a Berlusconi, possiamo dire usando un termine calcistico. Berlusconi, che proprio questa mattina aveva nuovamente chiesto ai centristi di confluire nel Popolo delle Libertà, usando toni per la verità non molto concilianti, perché aveva detto anche Berlusconi che se Casini andrà da solo raccoglierà ben pochi consensi. Ma sentiamo le parole di Berlusconi. Il mio sogno, quello di un grande, grande movimento che mette insieme tutti gli italiani che non si riconoscono nella sinistra e che certamente gli elettori dell'UDC condividono, non portino Casini a questo piccolo sacrificio di lasciare momentaneamente magari da parte il suo simbolo. Dico vieni con noi, facciamo un gruppo unitario in Parlamento, solo così possiamo essere credibili di fronte agli elettori. Insomma Andrea, la soap Berlusconi-Casini non si chiude qua. No, non si chiude qua, anche se Casini, allora davvero, ha detto che comunque una decisione definitiva del suo partito arriverà nelle prossime ore, quindi bene, verosimilmente entro il weekend. Allora staremo qui ad aspettarla e soprattutto a raccontarla ai nostri ascoltatori. Movimenti importanti dunque questa mattina nel centrodestra. Il centrosinistra invece si gode l'accordo incassato con l'Italia dei Valori di Di Pietro e 2.618.000 ascolti per Veltroni, comparso ieri sera Porta a Porta da Vespa. Berlusconi è stato visto invece da 2.577.000 persone, quindi un pochino meno, anche se Bonaiuti non è d'accordo su questo dato. Già si litiga anche sui dati dell'auditor, non è un buon inizio però. Per lanciare il tema Veltroni, che tra poco sentiremo, c'è una vignetta di Staino sulla prima pagina dell'Unità che parla proprio dell'accordo tra Di Pietro e il Partito Democratico. C'è il solito Bobo che parla con la figlia che le dice: che dici di Di Pietro? Petro, imparentato con il Partito Democratico? E che vuoi che ti dica, risponde un po' sconsolato Bobo. I parenti mica te li scegli. Allora, dicevamo di Veltroni, che come il giorno prima per Berlusconi ha usato toni molto pacati, molto moderati. L'hai visto, sì, Alessio? Sì, l'ho seguito anch'io. Ecco, toni molto pacati, quelli di Veltroni da Vespa. Esattamente. Chissà che forse non riusciremo ad avere questa volta una campagna elettorale un po' meno volgare, urlata e sbraccata dell'altra volta. Chissà, speriamo. Naturalmente Veltroni ha parlato di moltissime cose. Risentiamo però il passo dedicato ai temi economici, quelli che forse, tra l'altro, interessano di più tutti noi e le famiglie che sono a casa. C'è anche un anticipo di quello che sarà il programma presentato sabato. L'intervento a sostegno dei figli. Noi abbiamo bisogno in questo paese di far riprendere l'incremento demografico. Allora io sono dell'idea che si debba dare un sostegno attraverso o una detrazione fiscale, ma consistente, 2.500 euro per figlio, oppure per gli incapienti addirittura la consegna di un assegno. Poi c'è un altro intervento, quello riguarda gli asili nido. La seconda cosa fiscale nella quale credo molto, al di là delle proposte più generali, è un intervento per le donne che lavorano. Posso dirle una cosa su un altro versante che considero altrettanto importante. Il dramma principale di questo paese è la precarietà giovanile. La proposta che noi avanzeremo è quella di dare un compenso minimo legale, cioè dire alle imprese: nessuno che abbia un contratto atipico, un contratto di precariato, può avere meno di 1.000-1.100 euro. E dunque, sul palcoscenico televisivo di Bruno Vespa si è consumata la prima apparizione pubblica della loro campagna elettorale. Parliamo naturalmente, oltre che di Veltroni, di Berlusconi, leader dei due schieramenti. Sentiamo che opinione si è fatto Gianluca Nicoletti. Due considerazioni sul Veltroni a porta per la prima volta nel ruolo di aspirante premier. La prima riguarda l'aver ricalcato troppo lo stile dell'avversario che lo ha preceduto nel confronto da Bruno Vespa. Oggi tutti gli osservatori non hanno potuto fare a meno di sottolineare le coincidenze tra due politici, dallo stile d'esposizione del programma fino alla stessa cravatta, quella classica a pallini. In realtà, se proprio vogliamo, qualche differenza c'era. La camicia bottom down con i colletti slacciati, che è una concessione all'estrosità radical chic, forse anche un po' troppo inflazionata. Quello che invece si notava di sicuro impatto è la dinamicità in studio di Veltroni rispetto al Cavaliere. Ora, se il telecomizio è ormai una categoria espressiva riconosciuta, con le sue regole e i suoi canoni estetici, il corpo ha un peso non indifferente e riesce a corroborare la credibilità del candidato. E quindi in questo caso è indubbio che la differenza anagrafica si nota. Non è che Veltroni sia il più fulgido parametro di giovinezza, ma la sua ostentata e vezzosa trasandatezza nella capigliatura e nel muoversi lascia comunque l'impressione di novità piuttosto che ogni mummificazione sorridente.